Con uno faccio due tasselli utili. Il campo condiviso di ricerca. Creare un campo condiviso di ricerca è un atto rivoluzionario che implica di volgerci l'una verso l'altra nell'esigenza e nella consapevolezza di avere una meta comune, di desiderare le stesse cose e di soffrire delle stesse cose al di là del livello interpersonale, conflittuale o meno che sia. È con questo atto che possiamo abbandonare i sintomi e gli avvenimenti del livello interpersonale e concentrarsi sulle origini del disagio permanente e sulla creazione di una realtà specificamente femminile, che contenga le nostre brame, il nostro vissuto intuitivo, il nostro sapere nascosto, la perspicacia esplicita, l'intelligenza e la responsabilità in connessione con la natura. Nel campo condiviso di ricerca posso assumermi e offrire all'altra l'essere protagonista di un nuovo cammino verso una cultura di sintonia e di dignità. La contrapposizione, dettata dalla supremazia patriarcale, viene trasformata in collaborazione. L'attrito lascia spazio alla compassione. Si esce dalla limitante dualità ragione-torto e attacco-difesa, cioè dai meccanismi di resistenza e di lotta, inventandosi con creatività e divertimento, con insistenza e serenità, i metodi e l'attivismo per portare i desideri condivisi verso la realizzazione. Tenendo salde nella mente le visioni sviluppate insieme, si possono smascherare le costruzioni di illusioni sintomatiche che rendono le donne facilmente gestibili da volontà esterne, godendosi il riflesso del proprio vissuto nell'altra. Si può rinunciare a giudizi e opinioni, accogliendo invece, a livello orizzontale, con sincerità e interesse, la meravigliosa diversità nell'essere donna, le pazzie e stranezze, la genialità e la profonda sagacia. Si scende dal palcoscenico in cui si svolge il dramma della contrapposizione delle donne l'una con l'altra, per arrivare all'origine sia del disagio che delle risorse di ricchezza. Riconoscendo la condizione comune, cercando insieme e individualmente di modificarla con efficacia. Nel campo condiviso di ricerca si dispone del sostegno per ognuna, dell'intelligenza moltiplicata, con le illuminazioni e gli strumenti diversificati dalle esperienze e facoltà individuali. È in questo campo che si può creare una cultura di dignità, con ciascuna che contribuisce con la sua storia, i suoi abissi e le sue paure, con acume e sfacciataggine, profondità e umorismo. È una modalità che offre a noi donne l'occasione di praticare, concedendoci di esercitarci, inventarci nuove regole e provare ad applicare le tecniche acquisite in questo campo specifico femminile, più intenso, più immediato, più inesorabile. Si impara così ad accogliere con stima e gratitudine il bagaglio di disagi e oscurità, quanto la brillantezza e la prontezza spesso non sufficientemente valorizzate, e a favorire la possibilità di mettere in pratica alternative agli attuali principi della società, della politica, dell'economia e della spiritualità. La dedizione all'esplorazione condivisa, al di là dell'isolante restrizione individuale, in un accordo di ricerca in seno a un interesse in comune che va oltre l'importanza personale, scongiura il pericolo che i tentativi di cambiamento strutturale, come per esempio progetti di convivenze alternative o collaborazioni lavorative, si frantumino sul livello interpersonale con lacerazioni e scissioni a volte non più riconciliabili. Il disagio comunicato diventa ricchezza per tutte. Lo sforzo di una donna per superare gli schemi diventa contributo alle possibilità di cambiamento di un'altra. Il racconto delle vicissitudini private diventa un tassello in una realtà ancora tutta da nominare, nella consapevolezza di essere protagoniste di un lavoro culturale che modifica l'impronta storico-sociale e politica dell'essere donna. Individuando le condizioni originarie del malessere come denominatore unificante, possiamo smettere di agire contro l'altra. Anzi, comprendiamo che proprio questo nutre una condizione che ci tiene divise fra noi, che impedisce la solidarietà, la sorellanza oltre che la costruzione di una realtà che ci corrisponda. Nel campo condiviso di ricerca, la modalità di esserci amiche, esserci simpatiche, viene rimpiazzata dalla stima reciproca e dalla considerazione veritiera di ciò che con quest'altra donna si può realizzare. La simpatia quindi diventa trascurabile nella valorizzazione della specificità di ciascuna. La ricerca individuale condivisa conduce la donna a trovare delle modalità di comunicazione diversa, realizzando una proposta dignitosa per sé, per le altre e per tutto, invece di continuare a recitare la parte che la struttura patriarcale interiorizzata le ha assegnato. È con questo lavoro personale che si fa la rivoluzione. Ognuna contribuisce, nel suo piccolo, alla realtà comune in cui viviamo. La realtà personale è quella condivisa, quella sperimentata nel proprio essere e quella esterna nel mondo, scoprendo che alla fine non c'è differenza. Se sono particella partecipe dell'insieme grande, ho una voce in capitolo. Se cambiamo noi stesse, cambiamo la realtà. Nuotare e riconoscere. La risonanza fra donne si risveglia a ogni incontro e le sue onde attraversano i vari strati dell'essere. Si intreccia in una danza graziosa e intrigante. La sua magia sprigiona la potenza del sapere condiviso. Si arricchisce con le esperienze di ciascuna, si increspa di eccitazione nell'oltrepassare i limiti conosciuti. Nel riflesso della composizione chimica, le donne si toccano e si riconoscono immediatamente nel nucleo che le caratterizza, come succede per ogni specie, accedendo al campo della risonanza morfica. Il termine risonanza morfica o campo morfico, campo morfogenetico in una prima versione, coniato da Rupert Sheldrake negli anni Ottanta del XX secolo, descrive il sapere intrinseco a una specie che include non soltanto cognizioni attuali ma anche storiche. Descrive inoltre il fenomeno della condivisione del sapere a prescindere dalla distanza e indipendentemente dal fatto che l'esperienza sia stata vissuta di persona. Il sapere sta a disposizione e nuove acquisizioni di capacità vi si infondono per essere accessibili a tutti i membri della specie. Percependo l'altra su questo livello, che viene praticato poco consapevolmente nella nostra attuale cultura e di cui abitualmente si nega l'esistenza, si nuota appunto nel campo della risonanza morfica, dove tutte le informazioni sono presenti, dove la conoscenza dell'altra è totale e a disposizione, anche quando queste informazioni non arrivano a livello conscio. Quando, per esempio, le azioni e le parole sembrano galleggiare, distaccate o in contraddizione alle informazioni dei livelli più profondi del campo morfico, si può creare della confusione riguardo a quale realtà riferirsi nella comunicazione con l'altra. È un movente validissimo per fraintendimenti o aspettative nate su cognizioni che non si riscontrano sul livello dell'agire quotidiano. Non abbiamo dimestichezza con le percezioni che vanno oltre i cinque sensi, né viene loro riconosciuta una valenza di realtà nella cultura occidentale. Le sovrapposizioni e contrapposizioni dei diversi livelli sono un'espressione dei limiti in cui ci muoviamo e possono complicare notevolmente la vita e le relazioni, perché l'informazione comunque c'è e arriva a prescindere che ci sia una chiave di lettura o meno. Meno questi livelli del campo morfico sono assunti e integrati e più lavorano producendo sintomi come ad esempio il conflitto tra le donne. Considerando la struttura multistratificata del sistema anima e forse ancora di più del sistema donna, dando retta agli stereotipi più diffusi, possiamo provare attraverso gli argini che separano questi livelli, accogliendo ciò che finora dovevamo rifiutare perché mancante di provenienza e collocazione precisa, lasciando che possa emergere e integrarsi come elemento prezioso nel nostro essere. È come aprire le finestre e lasciare che la luce raggiunga anche quelle parti tenute segrete, quelle finestre nel buio sotterraneo della nostra conoscenza. È un cammino che solo parzialmente si può intraprendere con le parole. Va sperimentato. Le parole possono indurre la voglia di avventurarsi verso l'esperienza, possibilmente in collegamento e condivisione continua con altre donne in cammino. Orientandomi verso la completezza, divento ricchezza per ciascuna, come ciascuna è ricchezza per me. Primo raccolto. L'intensità immediata ed esistenziale dell'incontro fra donne non importa se amiche, colleghe, parenti o amanti, nel conflitto può assumere una qualità straziante e devastante. Può servire ampliare lo sguardo e comprendere il fenomeno non soltanto come questione privata, ma politica, immersa in un contesto storico-sociale, in un campo morfico di cognizioni condivise. Può servire a comprendere le ripercussioni della nostra storia patriarcale sul comportamento personale e sul palcoscenico delle relazioni interpersonali e provare a vedere anche l'altra nella sua complessa interconnessione. Può servire a sviluppare degli strumenti per rintracciare le impostazioni patriarcali nel proprio essere senza agire il giudizio e l'opinione, ma attivando il sapere del flusso della memoria e il nostro essere divine. Può servire a cogliere il proprio disagio e riconoscere nel conflitto l'espressione o l'incontro di bisogni non riconosciuti. Dal 3 nascono tutte le cose, distinguere e valicare. Cos'è il conflitto? Quando nasce? Il conflitto può essere definito come l'espressione da una o più parti di bisogni non riconosciuti o a cui non viene data risposta. Il conflitto, solitamente, si svolge nella confusione di livelli, di impulsi, di bisogni, altrimenti si tratterebbe di un confronto, di un contrasto magari non risolvibile, ma privo del potenziale di escalation e del coinvolgimento emozionale tipico del conflitto. Stando nel benessere, nella chiarezza e nell'abbondanza, è molto meno probabile che ci si lasci turbare e si riesce quindi ad accogliere molto più facilmente e con più generosità un'uscita stonata, un'aggressione, un rimprovero, un attacco. È quando ci si trova in condizioni di precarietà, insicurezza esistenziale, malessere, scarsità, paura e instabilità emotiva o materiale, che si tende a innescare un comportamento conflittuale o a rispondere a una provocazione. A livello sociale, questa affermazione è facilmente osservabile nel quotidiano. Intere fasce di popolazione precaria ci vengono presentate come portatrici di difficoltà, illegalità, disturbi, crimini e pericolosamente in conflitto con le istituzioni. Il conflitto si può manifestare in innumerevoli modi, ma il movente è sempre uno stato di non benessere scaturito da diverse condizioni personali e collettive, come il sentire minacciata la definizione individuale di sicurezza o toccato un dolore che ci sembra inaffrontabile. In questo senso il conflitto esegue una funzione esistenziale nel suo ingegnare strumenti e situazioni, azioni e sentimenti che allontanino quello che destabilizza e che mette in pericolo le fondamenta della costruzione dell'identità. Può nascere il conflitto quando i bisogni non sono noti a livello cosciente, quindi non si è consapevoli di averli e risulta perciò difficile articolarli. Giacciono su livelli poco praticati e accessibili e si riversano su situazioni con cui non hanno necessariamente a che fare. È utile distinguere molto bene quale sia il vero bisogno non esaudito, senza farsi trascinare dall'esternazione di bisogni più superficiali. Può nascere il conflitto quando i bisogni sono in contrapposizione con i paradigmi dettati dal contesto sociale. E quindi diventa difficile esporli con disinvoltura. Nell'ambito delle preferenze relazionali e sessuali può essere, per esempio, un desiderio omosessuale non accolto e non vissuto, per non andare in contrasto con le regole sociali. La curiosità non vissuta di spingersi oltre al concetto dell'amore come relazione esclusiva fra due persone. La stessa attrazione sessuale può sfociare in situazioni conflittuali se non viene accolta dal proprio sentire o dall'ambiente sociale. Può nascere il conflitto quando ci sono imposizioni di modelli disattese. Per esempio, una fanciulla con ambizioni lavorative non contemplate dalla sua famiglia può scatenare liti e drammi. Può nascere il conflitto sotto la pressione di un sistema politico opprimente o sotto l'incombenza continua della scarsità economica, riversandosi sul livello interpersonale senza che si riesca a capire da dove arrivi. Il conflitto può nascere quando qualcosa di esterno tocca una ferita profonda del proprio essere, ferita di cui forse non si è a conoscenza o non si vuole conoscere perché è troppo dolorosa. Il conflitto è quindi un metodo per tenere a distanza o addirittura eliminare la minaccia del dolore, respingendola con tutti i mezzi a disposizione. L'intensità del contatto fra donne può risvegliare memorie sepolte nel profondo e molto dolorose. In mancanza di conoscenza e strumenti, la causa del dolore viene confusa con chi l'ha stimolato e quindi si riversa sul rapporto in modo conflittuale con lo scopo di fermare il dolore. Il riflesso immediato dello stato d'animo fra donne può portare a galla un'immensa vergogna o un senso di umiliazione e aprire di conseguenza alle pratiche conflittuali nell'intento di non sentire né l'emozione stessa né le sue cause originali. La vergogna, l'umiliazione e l'inferiorità che frequentemente risuonano nelle donne e fra le donne costituiscono una colonna sonora onnipresente. Di solito sono ben nascoste e a volte quasi non rintracciabili. Il conflitto può essere quindi un'espressione del grande disagio che creano. Credo che proprio la vergogna sia fra gli elementi più potenti a favorire l'isolamento e la sofferenza e a relegarci nello stato di carenza culturale alla base del conflitto fra le donne. Toccare la vergogna nell'altra tramite il riflesso o il tocco diretto è uno degli esplosivi più poderosi e imprevedibili sul livello interpersonale. Può essere toccato il sentimento della colpa, costruzione astratta, funzionale al potere. In verità la colpa non esiste. Esiste la responsabilità per quello che si sta vivendo, esiste disagio, rimorso, volontà di cambiare, di fare qualcosa meglio, ma la colpa è un concetto puramente cristiano, creato per tenere delle persone, soprattutto le donne, che secondo i rappresentanti religiosi nascono già colpevoli di cose che, guardando bene, non le riguardano minimamente, in uno stato di imprigionamento emozionale che le rende facilmente ricattabili e manipolabili come comode schiave. A maggior ragione, quindi, sentirsi sfiorare dal senso di colpa suscita resistenza e contrarietà, magari rivolta verso la persona che ha innescato questo sentimento. La frequente identificazione, in assenza di altro a cui attingere, del concetto di sicurezza con quello di possesso, di beni o di altre persone, porta inevitabilmente a sentirsi minacciate. Si arriva alla richiesta di fare a meno dell'oggetto o della persona cui quel senso di sicurezza è legato. Si possono scatenare sfuriate che corrispondono al senso di disperazione che ciò comporta. Per la salvaguardia dello stato di sicurezza individuale non ci sono limiti e sembra giustificato qualsiasi mezzo. Il non sentirsi riconosciute nel proprio dolore, nel proprio vissuto, può provocare il conflitto. Qui si sovrappongono i campi, ma un continuo non sentirsi giusta nelle coordinate date dall'ambiente può sfociare in un comportamento scontroso e di rifiuto, perdendo la capacità di discernere e rintracciare la disperazione iniziale. Il conflitto può nascere quando la dimensione di un incontro o la sua intensità superano la capienza delle opzioni relazionali a disposizione. Nel quadro attuale, una qualsiasi intensità, oltre a quella dell'amicizia e della sessualità, come potrebbe essere la ricerca, progetti e interessi condivisi oltre alle proposte relazionali, scambi di intensità nella dimensione della guarigione e del cammino spirituale, ha difficoltà a trovare un contenitore adeguato e può di conseguenza provocare l'infrangersi del desiderio dell'incontro sui limiti concessi. Il conflitto nasce con facilità in un terreno definito dalla paura e dalla scarsità, come quello che stabilisce il patriarcato attuale, sorretto dalla convinzione capitalista di non riuscire mai ad avere abbastanza, di essere continuamente derubati. Il conflitto non ha neanche più bisogno di avere uno stimolo concreto. È sufficiente essere continuamente esposti al martellamento astratto di scarsità e paura, per creare un malessere profondo e diffuso, che molto spesso non corrisponde neanche alle condizioni oggettive della posizione economica e che porta alle azioni più disperate. Può nascere il conflitto quando nella relazione tra due persone interviene una terza che anche involontariamente svela le interdipendenze malsane della relazione e, piuttosto di riconoscerle, si elimina la terza persona attraverso il conflitto e si mantiene la situazione inalterata. Ci possono essere delle cause transpersonali, come l'incongruenza avvertita diffusamente, ma non individuata né collocata con precisione, che è un movente molto frequente per il conflitto. Magari c'è una qualche incoerenza in una progettazione condivisa, qualche disagio all'interno di una situazione di più persone, qualche presagio inesprimibile e lo strillare dell'imbarazzo che si crea di conseguenza nelle persone o nel campo. Si manifesta sul piano interpersonale, combinando dei guai. Un altro motivo transpersonale è l'essere canale, portatrice o rappresentante di un interesse che non deriva dalla sfera umana, che ha le sue origini nel mondo immateriale, una richiesta spirituale che nella concezione della vita odierna trova poco riflesso, comprensione e diritto di esistenza, amplificato dalla negazione. Può essere un potente motivo per la confusione capace di innescare un bel conflitto. In tutte le situazioni di conflitto, il denominatore comune è sempre il disagio di fondo. Producendo una varietà ingegnosa di sintomi, spesso è difficile rintracciare quale, in verità, sia stato l'autentico fattore scatenante, quell'indicibile segreto che ci tiene sotto il suo controllo, finché non lo trasciniamo alla luce. E lo riusciamo a vedere. Nel caso specifico del conflitto fra le donne, il disagio di fondo nasce dalla riduzione della donna a una dimensione minima della sua possibile estensione naturale, e con il negato permesso di espandersi verso altri reami, diminuiscono anche la sua dignità e le sue possibilità di stare in una posizione di agio, benessere, autonomia e abbondanza. Per indagare i propri bisogni, desideri e difficoltà, e riuscire a comunicarli in modo autentico e sincero, senza aspettative verso l'altro, la comunicazione non violenta ideata da Marshall Rosenberg è un ottimo strumento. Rosenberg ha messo a punto un metodo che può essere molto utile per affrontare il conflitto e cercare la strada per uscirne. I quattro punti cardinali della comunicazione non violenta sono osservare quello che succede nell'avvento di conflitto, provando a descriverlo senza valutazioni e giudizi. Sentire quello che succede in se stessi a livello emotivo, fisico e mentale. Sviluppare la consapevolezza dei propri bisogni e la capacità di comunicarli. Articolare, infine, un desiderio rivolto verso l'altro senza la pretesa che venga esaudito. Anche nel conflitto fra le donne, la comunicazione non violenta può essere sperimentata, apportando grande vantaggio e contributo per accorciare il processo e renderlo invece una conquista preziosa per il cammino di crescita personale. Soprattutto la pratica di indagare sui bisogni e desideri in base a ciò che davvero succede nel sentire interiore, e di comunicare questo invece di parlare dell'altra persona, facilita enormemente ogni processo conflittuale. Ciò comporta di abbandonare, con una severa disciplina autoimposta, l'accusa e il giudizio verso l'esterno, concentrandosi sul solito e unico luogo in cui è possibile agire. Illusioni da lontano. Spesso si può osservare come nel dare un giudizio su una donna, specie riguardo a situazioni conflittuali, venga proiettata su di lei un'aspettativa di perfezione. Cioè la richiesta implicita di tenere un comportamento ideale che prescinde completamente dalle sue condizioni e dalla sua collocazione attuale, atteggiamento spesso assunto anche da altre donne. Questa proiezione attribuisce a lei tutta la colpa e la responsabilità, sia per la nascita che per la soluzione del conflitto. Una richiesta sovrumana, quindi, che non la considera un essere intessuto nelle condizioni quotidiane, sociali, familiari, professionali, bensì un essere distaccato dalla legge patriarcale dell'inferiorità della donna, dalla minore realtà di guadagno, possesso e influenza decisionale a livello mondiale. Si potrebbe ipotizzare che con una tale aspettativa emerga la cognizione nascosta di una dimensione in cui le donne hanno un potere maggiore, un'abilità e libertà altra per agire e muoversi, connessioni altre per contemplare la complessità di situazioni conflittuali. Non è un'aspettativa realistica riguardo a quello che la donna oggi può offrire e a cui può attingere. Le donne non sono entità distaccate che possono giungere al massimo delle loro potenzialità indipendentemente dalle condizioni che le attraversano. L'illusione della completezza è il riflesso di uno sguardo sulla donna interpretativo e mistificante che non corrisponde al vero. È la solita valutazione patriarcale ipocrita verso la donna vista contemporaneamente puttana e santa. Qui si manifesta lo sguardo che ascrive a lei, da un lato, tutto il male di questo mondo, anche se questa responsabilità per ogni malessere in qualsiasi ambito le concede per assurdo quel potere che l'uomo stesso sembra temere così tanto da cercare in tutti i modi di sottrarglielo. E dall'altra parte la riveste della mistificata perfezione dell'essere e della vita. Questa visione si crea e si rispecchia nella storia religiosa dell'Occidente, con il cristianesimo, in una religione che si sviluppa intorno a un Dio poco incline a concedere distrazioni dalla sua onnipotenza. Il conflitto fra le donne mostra, insieme ai conflitti in genere e di genere, caratteristiche riconducibili alla nostra storia patriarcale e all'impostazione religiosa e sociale delle nostre culture. È inoltre un metodo per impedire la solidarietà fra donne e per garantire che il flusso nutriente ed energetico vada verso l'uomo maschio e quindi verso il mantenimento del patriarcato. La violenza. La violenza è uno strumento con cui viene eseguito il conflitto e quindi conviene concedergli uno sguardo investigativo, cercando una definizione adeguata. È un qualsiasi movimento diretto verso un elemento altro, persona, pianeta, entità, qualità che sia, che si permette di agire su quest'altra identità secondo necessità proprie. La distinzione di quando un movimento verso l'altro, che in teoria potrebbe essere anche un'offerta, un racconto, un fascino, un interesse, muti verso la violenza o meno, dipende da se viene eseguito partendo da una carenza da colmare, oppure diretto verso l'esterno in autonomia dai propri bisogni. La violenza ci pare ovvia quando si tratta di atti fisici, omicidio, femminicidio, guerra e usurpazione. L'ambito dei cerchi di donne e delle indagini sulla violenza di genere, eseguite dai centri antiviolenza e di accoglienza per le donne, riconosce varie delle sue sfaccettature, come la violenza psicologica, economica, sessuale, nozioni che hanno urgentemente bisogno di diffusione perché entrino nell'educazione e consapevolezza comune. Per creare in se stesse la sicurezza di giungere alle origini della violenza, occorre permettersi un'osservazione spietata delle sfaccettature e sfumature della violenza e ammettere che la sua comparsa inizia molto prima dell'atto bruto, delle grida e delle botte. Si trova nella nostra comunicazione consueta e nel nostro comportamento quotidiano, in modalità riconosciute e accettate nella società a cui apparteniamo. Il disprezzo e giudizio, la disuguaglianza nell'accesso alle risorse vitali, sia che si tratti del pozzo d'acqua o del denaro, il presunto diritto di potere su altre persone, sono tutte espressioni violente. Indagare e indagarsi sulle sfuggevoli manifestazioni della violenza può essere già un atto di cambiamento, perché soltanto con la presa di coscienza è possibile attuare delle scelte e ragionare su alternative che la rendano obsoleta. Se applichiamo la definizione iniziale, diventa percepibile come atto violento l'inveire, per esempio, contro altre persone riguardo a cosa sbagliano e come dovrebbero fare, psicologizzarle, interpretarle, trasformando una qualsiasi intensità interiore propria in un movimento esteriorizzato. Il movimento verso l'altro corrisponde a una necessità propria non esplicitata, e con l'assunzione del diritto di muoversi nella sfera personale di un'altra entità, si agisce senza permesso e consenso. Voler aiutare per esigenza di aiutare può essere concepito come violento, così come voler missionare nel bisogno di essere in sintonia con quello che si crede giusto, per dare solo qualche esempio. Esigere l'adempimento del bisogno dall'esterno, ancora di più senza consapevolezza del bisogno stesso, costringendo un'altra persona a fare delle cose non liberamente, è un atto violento su un livello più palese e riconoscibile. Costringere l'altra persona, entità, ad esempio, ad adempiere al bisogno tramite l'applicazione di forza fisica o psicologica, è il livello che comunemente riconosciamo come atto violento. Non è facile trovare il limite fra la necessità quotidiana di procurarsi da mangiare, uccidere animali e raccogliere piante, che è comunque un atto eseguito su altri esseri, e una violenza evitabile con il riconoscimento dei propri bisogni. Credo però che la differenza consista sia nel provvedere alla sopravvivenza, sia nel relazionarsi, nella comunicazione, nell'esplorazione del consenso. C'è violenza ogni qualvolta non c'è consenso, riporta una brochure informativa dell'Associazione Differenza Donna di Roma. Nella sfera animale esiste il richiamo alla preda, e la preda stessa che si propone. Chi raccoglie frutta e verdura forse conosce l'acconsentire all'essere raccolti e consumati dietro umile richiesta a ringraziamento. Un agire su altre persone, considerato necessario per soddisfare una necessità, può miracolosamente trasformarsi da violenza in accordo, tramite l'esposizione delle esigenze originarie, l'accoglienza dei bisogni altrui e la ricerca del consenso. Diventa possibile ed efficace mettere in atto una guarigione alla radice quando scendiamo di un piano, presumendo che l'atto violento sia il sintomo di una lacuna profonda. Con l'attenta osservazione di noi stesse, dove anche in sfumature leggerissime adoperiamo la violenza, e nel riconoscerla come espressione di una sofferenza, un dolore, un non benessere, una disperazione, possiamo scoprire le necessità originarie, integrarle e trovare altri strumenti di espressione. E piano piano possiamo applicare le rivelazioni ottenute anche all'esterno, nel tessuto sociale di cui facciamo parte.